Tu poco fa hai detto 28 anni, però in Italia 28 anni si è considerati ancora dei bambini. Invece tu sei mamma di una bambina grande, cioè sei una donna a 28 anni. Cosa pensi del fatto che siamo sempre considerati ancora piccoli in Italia? Ma forse sai che più che essere considerati piccoli, viviamo in una contraddizione pazzesca, per cui a 28 anni ci si aspetta, o a 30, cioè c'è una richiesta di responsabilità pazzesca, cioè ci si aspetta che un giovane abbia delle esperienze, delle conoscenze, delle capacità, e contemporaneamente però, per esempio, mio marito è un giovane regista a 45 anni, dopo 25 anni che fa film anche di una certa importanza, cioè è esposto in un museo, ma è un giovane regista, è una cosa che è veramente bizzarra. Quindi è questa contraddizione che in qualche modo secondo me va un po' ignorata, è un po' come oh, ma sei donna e sei anche mamma, ma insomma è la natura, quindi cerco di appunto di ignorarla, nel senso di andare avanti come un panzer, e cioè, mi accorgo che le persone che bene o male non si lasciano condizionare, cioè, ovvio che uno si scoraggia alle volte quando vede che non è facile raggiungere risultati che sembrano così vicini, però in realtà se si fa finta che non esistano questi pregiudizi, poi le cose si possono fare, e quindi è meglio lo stupore di qualcuno che dice ma sei così giovane, invece che magari rimandare a quando sarà considerati un filino più grandi. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa, la televisione nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Studi Mediaset, Palazzo dei Cigni, Segrate. Quest'anno sarà La voce dell'insolvenza. Compie 25 anni Striscia la notizia e inaugura con Ezio Greggio e Michelle Hunziker. La voce dell'insolvenza è un titolo difficile, perché quest'anno è un anno difficile. Beh, non che l'anno scorso non lo fosse o l'anno precedente, credo che ogni anno... Forse adesso è arrivata proprio. Adesso è un anno complicato, ma insomma noi ce la metteremo tutta per assolvere agli impegni che abbiamo nei confronti del pubblico, e quello di fare una trasmissione fatta bene, con tante rubriche interessanti, e faremo sicuramente la nostra parte. E poi la cosa bella è che comunque avere la possibilità di essere in una trasmissione, far parte di una trasmissione, che è una certezza per gli italiani. Ci sono poche certezze che abbiamo ancora, almeno nell'intrattenimento, arrivare a casa, sedersi a tavola come facevo anch'io quando non ero ancora socia di Ezio, e avere la certezza di avere casa, cioè Striscia la notizia, è bello. Un interesse particolare verso le persone più sfortunate, anche verso zone d'Italia che non erano ancora state tanto coperte. No, sì. Erano coperte, ma dovevamo mandare alle volte in certe regioni inviati che venivano da altre aree, da altre zone, e invece adesso stiamo cercando di trovare, forse qualcuno abbiamo trovato, lo sapremo nelle prossime settimane, appunto inviati che possano andare a colmare queste lacune e quindi stare sul luogo deputato per fare i servizi. Antonio Ricci ha detto: a volte in botanica bisogna tagliare i rami secchi per far crescere gli alberi, sì, meglio. Sì. Questo è un periodo così. Sono verde, lei pure, quindi a noi la cosa non... No, però è vero, era molto romantica la cosa, non neanche da Ricci, però è vero, quando poti... Ma lui poti, è un po' botanico, io l'ho sempre detto. Poi a quel punto nascono i bocciuoli nuovi, ed è vero che durante la crisi nascono le migliori idee, proprio quando fanno tutti i tagli, perché ci si deve ingegnare. Sì. Fonderia Napoleonica, Milano. Si rinnova la scommessa di Sky. X Factor 6 con un cast rinnovato e l'entusiasmo di Simona Ventura, Arisa, Elio. Sì, voglia di X Factor, voglia di colore, e voi vedrete in queste puntate, insomma, che io sono zebrata, colorata, scarpe color fluo, insomma... Questo è, diciamo, testimonia anche un mio momento della vita in cui ho voglia di essere io, in verità, perché non sono mai stata una molto minimalista, molto minima, molto stitica, come si va molto nella moda. Per cui mi piace essere anche un po' spettacolare, essendo una donna di spettacolo, e questo è il momento giusto, secondo me. Quindi noi il giovedì sera guardiamo la puntata, il venerdì mattina andiamo a fare shopping. Ma la cosa importante è che è stata per te una scommessa vinta, vintissima. Sì, vinta. L'anno scorso avevo molta paura, no? Sicuramente avevo paura di non essere credibile ancora una volta. Come io con X Factor, cioè, ci ho lavorato molto, ma era sempre di più l'attacco, devo dire, al fatto che io non sapessi di musica e quindi non avessi proprietà né potere di parlare di musica, cosa che invece io ho una cosa mi riconoscono anche gli altri giudici, che è l'intuizione, cioè anticipo quello che la gente vuole, che non è un dono che io ho alimentato in tutti questi anni con la mia esperienza ormai di 25 anni, quindi come lo faccio su X Factor l'ho sempre fatto anche nella televisione. Anche nelle scelte proprio di vita, perché il satellite ha fatto spaventare tutti, adesso sei tu che fai paura agli altri, però. Sì, è una cosa incredibile, no? L'anno scorso ho avuto questa intuizione, ho intuito che era il momento di andare, che era il momento di scegliere delle cose nuove anche per me, perché avevo voglia di tornare a essere di nuovo creativa, tornare a imparare, tornare a condividere, perché non condividevo più nulla, e non crescevo più dal punto di vista anche professionale. E invece con Sky questo è successo, perché è un nuovo, come dire, un nuovo foglio di carta bianco in cui tu scrivi, ed è la cosa più bella che uno possa avere. Non ti chiedo niente di calcio perché tanto non ne so nulla, farei una figuraccia, però non hai paura che tutte queste domande sul calcio offuschino un po' la vera novità che adesso è il nuovo X Factor? No, hai visto che non abbiamo neanche parlato, le domande sul calcio le fanno Sky Sport, la Gazzetta, giustamente i giornali a cui io insomma faccio riferimento, essendo io una che tratta il calcio da quando aveva 6 anni, in verità, prima da tifosa, cioè il calcio è sempre stata la linea rossa della mia vita. Però la musica altrettanto, direi che ormai, cioè, questo è un po' il mio mestiere, diciamo che sono una, voglio essere nel mio piccolo un piccolo impresario per questi talenti, impresario che è una figura che nella musica italiana non c'è più, perché questo è molto grave, perché l'impresario era un po' come il nostro agente, aiutava il percorso di ognuno dei cantanti, no? Parlo della, per esempio, Mara Maionchi è stata un grande impresario, per adesso è nonna, insomma, non so se ha ancora voglia, non è facile poi nel mondo di oggi, però questo è un piccolo ruolo che vorrei ritagliare qui a X Factor. Intanto però devo dire agli ascoltatori che Arisa, cioè Rosalba, è un peccato che siamo in radio perché sei bellissima, sei di un'eleganza. No, sì, vero. Allora, come ti sei preparata a questo X Factor? Con una plastica ho fatto una plastica, ho ingigantito il mio seno di un paio di taglie. Sto scherzando. Non è da risa. E hai tirato fuori l'anno scorso delle cose che noi non conoscevamo di te. È stato importante per te questo X Factor? La lucanità, che si batte per le cose in cui crede, nel senso che comunque io dopo la prima puntata, quando hanno eliminato Rama, mi sono resa conto che era un po' una lotta all'ultimo sangue, quindi per difendere i miei cuccioli come una leonessa, come una leoncina, e mi sono un po' così adoperata per difenderli, perché secondo me meritavano tanto e sicuramente avremo presto la prova che meritavano tanto. E meritava tanto anche Arisa, che forse prima di X Factor 5 non era stata ancora valutata per quello che era davvero. Ti ha portato bene in quello? Sì, X Factor è stato fondamentale per me, la televisione in genere, perché io anche facendo Victor Victoria ho avuto una visibilità che mi ha fatto bene, diciamo, perché considerando che non so nascondermi, effettivamente faccio anche quella che non sa parlare. Effettivamente le persone si sono riconosciute probabilmente in una normalità che in un certo senso mi ha fatto amare un po'. Noi tifiamo per te, tifiamo anche per la tua grinta, ti vogliamo vedere sempre agguerrita con gli altri. Lo dici a tutti? No, l'ho detto solo a te. No, io per ora, sai, sono un po' così, mi guardo intorno, poi vediamo. Sarò agguerrita. Zampata quando serve. Sarò agguerrita se ci sarà bisogno di essere agguerrita. Elio, buongiorno, Marta, Radio 24. Buongiorno. Pronto? Tutto pronto? Sì, prontissimo.